Two loving people can make it if they try. Happiness and success is their desire. Keep on pushing, honey, don't look back. Baby, we can make it if we take the right track. The only hope we have is in our hearts. Yes, the only hope we have, I know, is in our hearts. One for one and two for two. Oh, baby, yeah, baby, baby, I'm for you. We can make it if our heads are high. Come on, baby, let's give it a try. The only hope we have is in our hearts. Yes, the only hope we have. Bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Sono già 2 settimane che riesco a fare la trasmissione puntuale nella nuova giornata, nella nuova serata in cui mi sono collocato, che è appunto il lunedì sera. E a 30 giorni mi daranno il gettone di presenza come agli alcolisti anonimi, che ce l'ho fatta per 30 giorni, per un mese intero a fare la trasmissione. E questa sera abbiamo diciamo un ritorno, nel senso che abbiamo parlato qualche settimana fa, non mi ricordo più quando, perché ormai ho perso il senso e il senso del tempo appunto rispetto alle mie presenze in radio. Però avevo parlato tempo fa di un furto di Bitcoin. Ecco, torniamo a parlare di furti di monete online. Questa volta è interessante un pochino, per aggiungere un pezzettino a questo mondo pessimo che si va delineando sulle criptomonete, che esaltano tanta gente, a me mi lasciano abbastanza freddo e indifferente. Però è interessante comunque perché possiamo parlare di due termini nuovi, nel senso è accaduto di nuovo che hanno svuotato le casse, questa volta di un exchange, cioè uno di quei soggetti che ormai nel proliferare di criptomonete si pongono appunto come enti di scambio per scambiarle, per comprarle e via. Esistono infatti tantissime monete circuiti. Questa volta diciamo il furto è toccato non strettamente al Bitcoin, ma ha toccato un exchange di Tokyo che si chiama CoinCheck, che non investiva soltanto in Bitcoin ma anche in altre criptomonete, e in particolare investiva in NEM tokens e in Ripples. Queste due criptomonete appunto sono altri due diciamo oggettini software nati in questi ultimi anni, il primo in particolare i NEM, che poi in realtà non si chiama NEM la moneta, NEM è diciamo tutta l'infrastruttura, però noi per semplicità li chiameremo NEM, così pure anche la moneta dei Ripples non si chiama Ripples, ma noi chiameremo tutto uguale perché è una grossa confusione, quindi per non confondersi faremo così. E appunto questo exchange ha subito un hackeraggio di nuovo e ha perso qualcosina come 532 milioni di dollari circa, di cui 420 milioni li aveva investiti in NEM e 112 in Ripples. Allora, che cosa sono questi NEM e questi Ripples? Allora, il NEM è una moneta, in realtà è più di una moneta, perché sia NEM che Ripples in realtà si pongono più che altro come delle infrastrutture complete per lo scambio. Quindi tutte quante non trattano solo moneta, ma tutte sono dotate di qualche forma di gestione di una blockchain. La blockchain, diciamo, è un po' il cuore pulsante delle monete elettroniche, diciamo, è questo libro mastro pubblico in cui vengono iscritte le varie transazioni. NEM appunto nasce nel 2014, nel 2015, una cosa del genere, da un utente di un forum Bitcoin Talk, si chiama, che sostanzialmente si è inventato una nuova criptomoneta, un nuovo sistema di scambio basato appunto su questi token e su un'infrastruttura di server che io non vi spiegherò perché sono tutte complicatissime, io non ci capisco niente quasi. Comunque i principi sono sostanzialmente simili, tu hai un wallet, un portafoglio, fai parte di questa rete, in qualche modo hai comprato questi NEM che di solito compri in dollari. O con altre, o in yen, visto che era molto usato in Giappone, o comunque lo compri con altre criptomonete, quindi magari hai dei Bitcoin, decidi di comprare dei NEM token. Perché dovresti farlo? Boh, dipende, nel senso che il Bitcoin subisce molte oscillazioni, queste altre monete che si pongono, diciamo, come infrastrutture più complesse, alcune volte oscillano di meno, quindi uno magari cambia, piglia dei NEM token, oppure si entrano nei classici meccanismi di finanziari della differenziazione, no? Quindi io magari ho dei Bitcoin, compro un po' di NEM, compro un po' di Ether, che sono un'altra moneta, questa di una casa svizzera, di cui magari un giorno parleremo. Compro un po' di Ripple e così diversifico il mio investimento in criptomonete. Vabbè, fatto sta che questo NEM sostanzialmente introduce anche delle cose tecniche nuove che a me interessano, è giusto, e quindi non, no, ma diciamo salto questi dettagli che tanto non li so e non li capisco, neanche ho voglia di studiarli, però. È interessante comunque capire, diciamo, per la mia trasmissioncina, è interessante parlare appunto di altre cose che non siano solo i Bitcoin, almeno imparate qualche nuovo termine, quando poi lo leggete da qualche parte dite ah, era quella cosa lì, sì, più o meno. E appunto i NEM, cioè diciamo, questa criptovaluta, se vogliamo proprio essere precisi, il nome dei token della rete NEM sono gli XEM. E sono tutti questi acronimi che si assomigliano, sembra li fanno apposta per confonderti. Comunque, e sostanzialmente è un'altra criptomoneta che era nata e andava abbastanza forte, soprattutto in quelle del Giappone. Era utilizzata anche da un po' di, diciamo, di istituti finanziari anche grossi, e quindi questo Coincheck aveva investito un sacco di soldini in NEM e mo gliel'hanno rubati tutti. E invece il Ripple, che cos'è? Beh, il Ripple è di nuovo un'altra criptomoneta, anche questa si pone come diciamo un meccanismo di scambio di altre, cioè un meccanismo di scambio completo, quindi un'infrastruttura tutta a sé stante. La caratteristica un po' del Ripple è che non lo mini, cioè nel senso che come il Bitcoin, cioè se i Bitcoin e i singoli utenti, no, diciamo, potevano cercare di minarlo, di acquisire dei Bitcoin in questa maniera, il Ripple invece lo acquisti comunque, lo acquisti di nuovo come vuoi te, cioè vai su un sito che tratta Ripple, anche sul sito stesso dell'azienda che l'ha prodotto, e lo acquisti in dollari, in Bitcoin, in che ti pare a te. E a quel punto ti vengono rilasciati dei token. Ora, perché uno dovrebbe comprare i NEM o piuttosto appunto i Ripple piuttosto che i Bitcoin e basta? Una delle cose che il gioco, diciamo, la punta di diciamo, la punta di La cosa meglio che ha fatto il Ripple è la velocità dello scambio, no? Mentre una transazione Bitcoin è abbastanza lunga, cioè si parla anche di 10 minuti prima che tu fai click e il tuo pagamento, diciamo, il tuo scambio di denaro viene acquisito dalla rete, dalla blockchain, e è iscritto nella blockchain. Nel caso del Ripple, siccome fanno le cose in una maniera un po' diversa, si parla di pochi secondi. Questo aveva grossa attrattiva, diciamo, per gli investitori, anche quelli forti, o comunque per quei siti che si pongono da intermediari appunto per la gestione di queste criptomonete, no? Perché vuol dire dare all'utente finale una velocità che il Bitcoin non permette. Il Ripple ha poi questa caratteristica, appunto, ma un po' tutte ce l'hanno, nel senso che tutte queste reti si basano su dei meccanismi di, in qualche modo, di fiducia. Volendo spiegare velocemente che cos'è questo meccanismo di fiducia di cui sento parlare, io ci ho acchiappato alcune cose leggendo un po' di esempietti online. In realtà la base è abbastanza semplice. Sostanzialmente, supponiamo che io sono Mario. e sono un utente di questa rete Ripple quotato, cioè che ha fiducia della rete. Poi c'è un altro tipo, Luca, anche lui è quotato. Mario e Luca si conoscono. Ora mettiamoci dentro altri due personaggi, di cui uno conosce Mario e l'altro conosce Luca. Tipo, pigliamo, che ne so, Melchiorre conosce Mario e Baldassarre conosce Luca. Supponiamo che Baldassarre voglia dare dei soldi a Melchiorre, e come fa? E allora, teoricamente, non conoscendosi, non c'è meccanismo di fiducia, ma siccome, entrambi hanno qualcuno che li può portare in termini di fiducia all'altro, questo scambio diventa possibile, nel senso che Melchiorre conosce Luca e Baldassarre conosce Mario, e quindi lo scambio è possibile perché Luca e Mario si conoscono a loro volta e c'è fiducia. Questo è un po' il meccanismo che tutti questi sistemi, diciamo, realizzano, tentano di realizzare. Ecco, se non che poi a un certo punto qualcuno ti ruba il wallet e tu perdi un sacco di soldi. E questo è quello che è accaduto sostanzialmente a questa CoinCheck, che tra l'altro, se guardate sul sito, non fa attualmente riferimento a questo accadimento. Pare che ci sia stata una specie di conferenza stampa notturna in cui non spiegavano sostanzialmente niente, non spiegavano niente, nel senso che non hanno detto come hanno fatto a farsi rubare i soldi, hanno solo detto sì, in effetti ce l'hanno rubati e ora non ce li abbiamo più. E così è andata. Quindi niente, questa introduzione a queste criptomonete, appunto, lo dico non perché io sia un fan delle criptomonete, anzi non riesco neanche a dirlo, anzi vi sconsiglio fortemente di acquistare criptomonete, vi consiglio anche fortemente di non contare in alcun modo su alcun tipo di denaro, è soltanto un fastidio e questa è un po' la mia opinione, però penso sia importante capirci anche qualcosa, visto che il mondo della finanza ci punta un sacco come nuovo sistema di speculazione, di scambio, di così. E utilizzano anche un sacco di parole, diciamo, che sono giuste tecnicamente e spesso inducono, secondo me, in qualche modo al pensare male. Cioè, male nel bene, nel senso che loro utilizzano un sacco il termine decentralizzato e tutte queste cose qua, no? Non dipendenza dai grossi istituti finanziari, come fossero dei sistemi di scambio che possono essere in qualche modo alternativi o migliori dei sistemi tradizionali, come se intendessero a un capitalismo diverso che è più ganzo. In realtà è soltanto più nuovo. E sostanzialmente non cambia quasi nulla rispetto al nostro capitalismo finanziario a cui siamo abituati, se non che non ci sono dei grossi, non ci sono i grossi nomi, ma ci sono dei nomi più piccoli che spuntano e attraggono gli investitori, eccetera, attraverso quel fascino che c'ha l'internet, e sostanzialmente però non ricreano una rete in qualche modo più giusta, creano solo un meccanismo di scambio dei soldini in maniera diversa, che comunque soffre gli stessi problemi degli altri, ecco. E quindi nulla, non investite in queste cose, non perdeteci troppo tempo, ma capitele per benino. Adesso vi lascio un po' di musichina e poi riprendo con le news dal mondo dell'Acari. smile, then it starts. The memories of my broken heart. Hear your name, your face appear. I see your baby needs falling tear. Tell me where. Riprendiamo la diretta dopo esserci ascoltato un po' di questa bella musichina. Si tratta di una compilation fatta da qualcuno che io personalmente non conosco, l'ho trovata sull'internet a caso, di musichine Northern Soul, e ce le ascolteremo un po' per tutta questa puntata. E il prossimo argomento in realtà riprende di nuovo una cosa che avevo detto nelle puntate scorse, ormai è tutto un riprendersi, ma ci sono aggiornamenti di continuo, è così. E questo riguarda un gruppo di cui avevo parlato, si chiama Dark Caracallo, almeno così è stato definito dalle le strutture che l'hanno studiato, che erano l'Electronic Frontier Foundation e questa Lookout, che non so che cosa sia, sarà un'azienda specializzata in analisi di malware, eccetera. Ecco, questo gruppo aveva sparso un po' in giro per il mondo, era un gruppo di quelli probabilmente che si riferiscono a qualche stato, quindi con un governo alle spalle, aveva sparpagliato in giro per un po' di computer questi tool, questo malware, e che ora c'ha anche un nome, l'hanno definito CrossRat, e interessante questo malware perché l'hanno fatto in Java e l'hanno studiato in modo per essere cross platform, cioè essere qualcosa che stesso eseguibile gira su più sistemi operativi, cercando di capire prima dove si installa. Ora c'è un signore che era un ex lavorante per l'NSA che ha studiato un pochino questo malware, le ha fatto il reversing e ha visto un po' come funziona, ne ha guardato un po' le caratteristiche. È interessante un pochino, non è che sia chissà quale, diciamo quale cosa stramba o innovativa, la cosa interessante è appunto più che altro che gira su più piattaforme e che all'inizio quando parte controlla e cerca di comprendere dove sta. Cerca proprio di capire, e questa cosa è interessante perché tenta di capire non soltanto su quale versione di Windows si trova o di Mac OS X, che è abbastanza facile, ma anche per i sistemi Linux cerca di capire su quale distribuzione si trova, per non sbagliare poi nei passaggi successivi, no? E quindi tenta di capire, che ne so, se sei una Debian, se sei un Ubuntu, se sei un Arch Linux, una Fedora, tenta un po' di capire dove sta per adattarsi meglio all'ambiente dove si trova, per installarsi meglio, per essere più nascosto. In realtà poi non è che utilizzi chissà quale tecniche, nel senso che anche se questo RAT, no? Che sarebbe, vengono chiamati spesso così anche questo tipo di malware, per installarsi su sistemi Linux, diciamo, anche se non viene riconosciuto da molti antivirus ancora, sostanzialmente chi ti vuole consigliare cioè un modo per scoprirlo, scusate la voce mi sparisce, diventa sempre più roca, spero sempre più sexy, no, non credo, sempre solo più malata e basta. E comunque quello che viene consigliato è sostanzialmente di cercare un file che si chiama media.mgrs.jar e di cercarlo un po' o in user var, che probabilmente lui in molte distribuzioni si mette lì, oppure di cercarlo dentro .config autostart, cioè nell'autostart che è uno dei... diciamo uno dei modi in cui molti ambienti grafici Linux fanno partire le applicazioni. Quindi non è che si tenti di nascondere in chissà quale modi complicati, semplicemente parte all'avvio del vostro sistema e rimane lì. Faccio abbastanza semplice da individuare se sapete cosa volete cercare, se non lo sapete potrebbe girare per sempre e non ve ne accorgete mai. E questa è la caratteristica di questi begli oggettini. E quindi nulla, se vi cercate in rete, siete super paranoici e volete essere sicuri di non essere colpiti da questa cosa, cercate un po' in rete cross RAT versione 01. Infatti pare che questa versione che hanno trovato sia la 01, aveva alcune funzionalità peraltro che non erano ancora operative, nel senso che viene sottolineato come si usasse una libreria per sostanzialmente per catturare gli eventi che uscivano dalla tastiera e dal mouse, quindi sostanzialmente per fare un keylogger, cioè qualcosa che controlla come avete mosso il mouse, cosa avete scritto sulla tastiera, eccetera, pare usasse una libreria in Java, che però non è poi attivata all'interno del programma, o almeno non si sono trovati degli hook, degli agganci per attivarla, quindi probabilmente questa versione 01 è una versione limitata, magari ci saranno in giro versioni migliori, più belle di questo stesso tool, diciamo. E ora vi lascio con un altro pochino di musica e tento di far riprendere la mia stanca gola. E poi l'ultima notiziola con la quale chiudiamo anche la puntata, poi ancora un pochino di musica e poi basta, vi lascio alle solite e noiosissime, no non è vero, bellissime repliche, o alla nostra bobina, quella sì un pochino noiosetta, di Radio Wombat. You're gonna shine in the big boss land, cause the company so fine, come on, ships ain't good please, tight as they please. Girls everywhere. Rieccomi qua, sono sopravvissuto, ci ho messo un po' più del previsto a riprendere la mia voce normale, se normale potrebbe mai esserlo. La prossima notiziola che vi volevo dare è una roba da atleti, quale io attualmente non mi sento perché proprio non ne posso, c'ho 2 settimane di influenza, mi hanno fiaccato completamente. E comunque è una notizia simpatica. Se vi piace correre, vi consiglio assolutamente di usare questa app che è consigliata anche da militari e forze speciali di tutto il mondo. È un'app, si chiama Strava, e se l'accendete quando correte vi fa un sacco di cose utili, tra cui tenervi percorsi, farvi conto diciamo, di quanto siete migliorati, vi dà un sacco di spunti interessanti. E tra le altre cose che ha fatto è sostanzialmente anche mappare alcune delle installazioni militari, delle basi segrete, in particolare statunitensi, e mapparle comodamente su internet, nel senso che questa app, che nasce appunto come app per sportivi, molto social, cioè ci si può conoscere, cioè tu corri, corriamo nello stesso posto, ci si guarda dove si corre. Fatto sta che è piaciuta talmente tanto che l'hanno usata anche un sacco di militari, non rendendosi conto che però se correvano attorno alla loro base, perché lì erano di stanza sostanzialmente, nel frattempo stavano anche mappando in maniera abbastanza precisa la posizione dell'installazione militare. Tanto che quando questi signori di Strava hanno poi messo disponibile sul loro sito questa Global Heat Map, che sarebbe una mappa di tutte le persone e dei percorsi, una mappa per intendersi come quelle di Google Map, no? Quindi una mappa dove vedi le cosine, le foto dall'alto, le cose prese dal satellite, eccetera. E cosa hanno fatto? Hanno messo a disposizione di tutti questi dati. Tra questi dati c'erano appunto anche tutti quelli collezionati da militari di svariati corpi armati. E quindi potete andare a vedere, a cercarvi su internet le foto dall'alto con i percorsi ben mappati, le coordinate geografiche, eccetera, di alcune bellissime basi americane e non, tra queste anche la famosissima Area 51. Quindi sappiamo che anche all'Area 51 ci sono degli atleti che si allenano e ci corrono tutto quanto attorno. E poi che altre basi sono venute fuori? Ah, una base forse della CIA in Somalia, e poi altre installazioni militari americane sempre in Afghanistan e in Siria. Poi c'è anche sicuramente, mi sembra di aver letto qualcosa di russo, sì, ci sono anche alcuni russi, ma poi c'è anche ad esempio una base, un aeroporto militare sulle isole Falkland, quindi roba inglese. Poi che cosa ci abbiamo? Abbiamo anche altre isolette che io non conosco, tipo questo Lake McPhee, che forse questo è un lago, però non è un'isola, e poi la Gull Island Pond, questa è un'isola per forza, c'è scritto Island, e quindi niente, se voi vi cercate in giro sull'internet Strava Heat Map, può darsi che riusciate ravanando un pochino nelle label, c'è una ricerca anche molto comoda per label, potete trovare queste cose qui, se non le hanno già tolte tutte, visto che comunque anche gli americani ci sono rimasti un po' male. Sono interessanti comunque le riflessioni che hanno fatto, no? Nel senso che i giornalisti che hanno scritto si sono posti il problema, ma è colpa di questi della Strava? O forse colpa che i militari sono un pochino scemi? No, nel senso che se te vivi in una base sostanzialmente che dovrebbe rimanere segreta e tieni il cellulare acceso con qualcosa che ti geolocalizza, e anche quando vai a correre, che non è una roba proprio che, ecco, un militare americano ne ha proprio bisogno, no? Cioè avranno bisogno anche loro di socialità, quindi essendo lì isolati si danno al mondo dei social, chiaramente. Però ecco, non è forse la cosa più intelligente da fare, se poi sull'internet vengono fuori tutti i tuoi movimenti attorno alla base, non hai fatto un gran servizio, però ecco, magari un problema è anche un pochino tuo, ecco. E quindi nulla, no, noi siamo contenti, speriamo che più militari utilizzino queste cose, chiaramente, così anche noi possiamo vedere dove stanno queste installazioni così belle, che di solito si vanno a stagliare sempre in questi pezzi di natura incontaminata, o completamente deserta, e poi a un certo punto arrivano questi grossi capannoni con le antennone, eccetera. Almeno così ce le guardiamo dall'alto e, per quanto ci permette di zoomare Google Maps, anche un pochino più da vicino. E con questo qua chiuderei quasi quasi il programma, però forse, non lo so, vi lascio ancora un po' di musica perché ci avevo quasi quasi in intenzione di dare anche qualche altra notiziola più tecnica, visto che in questi giorni sono capitato per, boh, nel mio girovagare sulle le tecnicogorie, che mi piace chiamare, cioè le ammenicoli, gli ammenicoli software, che si trovano sull'internet, sono incappato in alcune cose interessanti che volevo segnalare agli appassionati, e quindi se mi riesce di ritrovarle adesso, perché chiaramente non mi sono segnato nulla, quindi devo ricostruire tutti i miei percorsi, e se mi riesce di trovarle ve lo do come chiusura della puntata. Altrimenti vi saluto comunque tra un pochino, e ora vi lascio sempre alla bella musichina Northern Soul che ha accompagnato tutta questa puntata. style out of 25. My father was disgusted, my oldest brother got busted, and it's serving time behind that bad moonshine. I was young and in diapers, but I was cool even then. You could find me in the crib, shooting dice with one of my friends. They call me Baby Boy. I'm part of a new generation. They call me Baby Boy. Part of a new generation. Now I couldn't dig a soft life, and I really didn't care. I'm of a new generation, and all of that is square. I had to do my thing, cause it was the only thing that mattered. So at the age of 10, I boarded a train for Cincinnati. They call me Baby Boy. Part of a new generation. They call me Baby Boy. Part of a new generation. Was all about, cause I was on my own and there was no room for no doubt. I found a song to sing and learned to play a guitar. That's when I made up my mind that I wanted to be a star. They call me Baby Boy. I'm part of a new generation. They call me Baby Boy. Part of a new generation. They call me Baby. Rieccomi, ce l'ho fatta. Quindi non chiudo solo con i saluti, ma chiudo con qualche spunto per i più appassionati di questi di questi oggettini che consumano alcune ore della mia vita, che non so mai bene se sono ore buttate oppure ben spese. Comunque sostanzialmente vi volevo dare due consigli per aspiranti o appassionati di reversing e cose simili, in particolare di tool utili su Linux. Uno è, se non avete idea di che cosa c'è a disposizione, io l'altro giorno, girovagando un pochino a caso, ho trovato su GitHub, quindi il link è github.com, il sito, e cercate un tizio che si chiama Zardus, che ha fatto una paginetta con una raccolta di tool e di installer relativi per i Capture the Flag. I Capture the Flag sarebbero quei giochini sostanzialmente in cui ti si danno dei programmi con dei bug da sfruttare, e tu devi cercare, procedendo per livelli, di risolvere questi problemi. Ecco, se voi volete un elenco di queste cose abbastanza ben ordinato, potete guardare su appunto github.com/zardus/ctf-tools e trovate appunto questo lungo elenco di roba che questo personaggio, che perde probabilmente molte più ore di me dietro a queste cose, ha collezionato, con tanto di installer per ciascuno di questi. Poi in realtà, se usate la maggior parte delle distro Linux, molte di queste cose sarà sufficiente installarle dai pacchetti della distro. Ma se così non fosse, volete una mano, o quantomeno se volete scorrere tutti quelli che utilizza il signor Zardus, che comunque sono tanti e sono interessanti, e poi se c'è qualcosa che non conoscete ci cliccate sopra e così vedete anche che cavolo è, e appunto vi consiglio di dare un'occhiata a questo sito se vi piglia bene di queste cose. Se poi invece volete un'introduzione a un tool molto figo che si chiama Radare 2, io recentemente sono capitato su un blog che c'ha tipo 5 post e basta, però due sono molto interessanti e anche il terzo sembra abbastanza spocchiuso. È abbastanza recente, se no non ve l'avrei detto, nel senso che i due post di cui parlo si intitolano A Journey into Radare 2, In cui sostanzialmente sono di marzo e di settembre del 2017, quindi è roba comunque di non più di 8 mesi fa, che materiale se ne trova tanto, di diciamo recente abbastanza poco. E queste sono due introduzioni però fatte abbastanza bene, su due post di un personaggio che ha giocherellato un po' con Radare 2 e ha scritto poi la sua esperienza un po' guidata. Quindi se siete degli aspiranti che un po' ci capiscono e un po' no e volete una guida che vi utilizzi, cioè che vi avvii a questo genere di giochini, ecco questo blog, che non vi ho ancora detto, cioè ne parlo da almeno 5 minuti, non ho detto ancora qual è il blog, comunque www.megabits, scritto mega oddio quant'è, 2ts.net. Ora lo rileggo perché l'ho letto malissimo, allora ve lo leggo una lettera per volta, vai, se non si capisce. Allora, www.megabits.net, net si capisce, e letto tutto è www.megabits.net, e lì ci trovate appunto i post di questo signore. Tra l'altro ce n'è uno anche buffo che io non ho ancora letto, che è Reverse Engineering e Game Boy ROM with Radare 2. E questo addirittura di 9 ottobre, quindi bomba, questo è proprio quasi anteprima. E ora, se non avete capito niente di che ho detto, è abbastanza forse normale, non lo so. Comunque tanto era l'ultima parte della puntata, quindi potevo permettermi di scialare nelle cose. C'avevo anche un altro link che mi avevano scritto un po' di giorni fa, di un bel tutorial sempre per Radare 2, ma me lo sono perso. Per la prossima puntata giuro che lo recupero e così ve lo recensisco, ecco, ve lo recensisco. E quindi chiudo così la puntata di Coccoli al Silicio, questa volta abbastanza lunga, però c'avevo tempo da perdere, ecco, sostanzialmente. E vi do appuntamento al prossimo lunedì, ve lo potete sentire comunque la trasmissione in replica per tutta la settimana. Vi auguro una buona notte, vi lascio ancora con un po' di bella musichina di quella che abbiamo ascoltato finora, cioè di una compilation Nord & Soul fatto da qualcuno preso a caso dall'internet. I always end up loving on the losing side. I always end up loving on the losing side. I always rush in like a fool from the beginning, but one day just you wait. I try just not to die that kept me from admitting the times I felt like quitting. Yeah, how many times I've fought, that's the last time I'll get caught, 'cause by now I should know. I'm